e cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte, nera. Il lampo di Giovanni Pascoli, dalla raccolta Mirice, pubblicato nel 1905. Pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International. BYNC ND.